Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La Roma prima nel suo girone di Champions, dunque, evento mai successo prima nella storia delle partecipazioni giallorosse alle coppe. L'Inter seconda invece in un gruppo che comprendeva Werder Bremen, Panathinaikos e Anorthosis. Gruppo in cui a fallire sono stati proprio i tedeschi, gli unici che si sarebbero detti i possibili rivali dell'Inter. Dunque, oggettivamente, una figuraccia. Ora, proprio da questa metamorfosi dell'Inter, che è sempre più perentoria in campionato ed è sempre più balbettante in Coppa, partirei per il primo argomento di oggi. Siamo collegati con Fabio Monti del Corriere della Sera. Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da quanti anni segui l'Inter in Europa? Da tanto, insomma. La prima trasferta l'ho fatta nel 1983. Quindi, insomma, 25 anni, no? Un quarto di secolo. Allora, io non voglio dire che queste sei partite, questo girone, siano stati uno dei momenti più bassi dell'Inter in campo europeo, perché ce ne sono stati di peggiori. Sì, ma forse anche dei più alti. Ecco, però anche dei più alti. In rapporto però alla qualità di questa squadra attuale e a quello che ho ottenuto in queste sei partite, io credo che non ci andiamo molto lontani comunque. Sì, no, è strano, perché una volta, anzi, in periodi in cui l'Inter faticava moltissimo in campionato, ma molto prima dell'era Moratti, insomma, a volte la Coppa era un po' la scintilla che accendeva la stagione, no? Allora sì. Poi con l'eliminazione diretta, certo. C'era la famosa frase di Beltrami, che allora era il direttore sportivo, diceva: l'importante è svernare in Europa per dire che di essere ancora nelle coppe a marzo, a primavera. Sì, che poi adesso è anticipato a febbraio. Ora, carità, no. L'Inter c'è da questo punto di vista, e ha anche ragione Mourinho dicendo: sì, è vero, a noi toccherà una prima, mi immagino che faccia fare questa prima quando verrà sorteggiata con l'Inter. Però, lasciando quindi impregiudicato il futuro, questo oggettivamente era un girone da vincere, non dico punteggio pieno, ma quasi però. Sì, no, non ce l'ho fatto, 8 punti, non sono, diciamo, avvilenti in senso assoluto, perché se ci fossero state altre si poteva anche stare. Mi pare che una volta la Juventus l'aveva fatto, però aveva il Manchester United nel girone, era un girone complicato. Questo davvero ci poteva stare al massimo un pareggio fuori casa con una, sì, con una delle tre, insomma. Certo, ma non di più. Ora, proprio perché sono insomma, in 25 anni un'idea te la sei fatta, e soprattutto in questi ultimi, da quando il rapporto di forze sia all'interno che all'estero, ma soprattutto all'interno, è cambiato, vogliamo provare a cercare qualche traccia di spiegazione in una metamorfosi così? Sì, non è facile, perché appunto è abbastanza strana e per certi anche inspiegabile. Ma io credo che con gli eventi che sono capitati negli ultimi anni, Calciopoli eccetera, l'Inter mette adesso nel campionato una determinazione che in Europa non mette. Cioè, come per voler legittimare questi scudetti che ha vinto sul campo eccetera in questi anni, sì, e per continuare a essere prima, anche adesso che siamo tornati ai normali valori di forza. Forse in Europa questa determinazione non c'è. E poi non so se forse la squadra in Italia è un po' troppo, cioè è molto fisica oltre che di qualità per il calcio italiano, e quindi può dominare il campionato, e invece questa fisicità in Europa ha un contraltare più forte in altre squadre. Quindi pesa di meno in realtà. Esattamente. No? Pesa di meno questa. Di meno. Questa potrebbe essere una buona spiegazione. Un po' strana. Però questa mi incuriosisce, perché in effetti, soprattutto se si parla di tedeschi, potrebbe essere. Poi è vero che l'Inter comunque ha avuto difficoltà anche con greci e addirittura ciprioti, che per carità dal punto di vista dinamico è un conto, dal punto di vista della struttura della stazza non sono certamente all'altezza dell'Inter. Mi ha molto colpito però ieri sera, mi hanno molto colpito le scelte di Mourinho, e ho sentito Mazzola nei suoi commenti televisivi di ieri sera, era più sbalordito che colpito per la verità, nel senso che l'Inter aveva trovato comunque una formula di gioco, di quadratura, e la si è vista nelle ultime uscite di campionato, sempre più sicure, sempre più perentorie, dicevo all'inizio. Perché abbandonarla? Io capisco che in Europa si possa anche cambiare atteggiamento quando sei già qualificato, ma visto che il primo posto poi, insomma, non era proprio una roba da poco, sia per prestigio che per sorteggio, perché abbandonarla in un'occasione del genere, secondo te? No, credo che lui, a parte riguarda la partita di Coppa Italia che ci sarà col Genoa, è convinto che quella di ieri potesse essere l'unica ipotesi di prova, di provare qualcosa. Tutto sì. Cercare di capire a che punto sono Quaresma e Mancini, che per adesso hanno molto più il portoghese del brasiliano, perché il brasiliano non aveva cominciato male, poi si è un po' seduto, forse si è un po' depresso per la situazione, e allora ha tentato questo esperimento lasciando inalterato il sistema di gioco, cioè mettendo Mancini dietro le due punte, che sì. È una soluzione alla quale lui pensa, perché un vero vice Stankovic non c'è, insomma. Anche se adesso è da vedere quando verrà recuperato a pieno Gimenez, su cui lui conta molto, e allora ha tentato questa soluzione, questa alternativa. Mancini una gran palla a Adriano profonda l'ha messa a un certo punto, sì, anche se secondo me lì un po' della sua caratteristica principale, che è la velocità, mi pare, no? Sì. Ecco. E poi c'è stato, credo sia stato abbastanza tradito, ma non è la prima volta, da Adriano, insomma, sì. Che poteva anche fare qualcosina di più. E questo tentativo di Quaresma seconda punta, insomma, è tutto da rivedere. Tutto da rivedere e lui è proprio un giocatore, mi pare, proprio bloccato psicologicamente. Sì, sì, perché insomma, non, forse era stato un po' sopravvalutato prima, però non è neanche parente di quello che si è visto. Io mi ricordo che l'abbiamo visto nella nazionale portoghese, eccetera, insomma, adesso forse è stato pagato troppo il rapporto, però non è certamente un buon giocatore. Insomma. Certo. C'è un ascoltatore che scrive e dice: va bene che non avete argomenti, ma l'Inter a settembre era già qualificata. Beh, insomma, l'Inter a settembre era già quasi qualificata. Però il fatto che nelle ultime tre partite abbia pareggiato in casa della Nortosis e perso in casa con il Panathinaikos e riperso a Brema, non può non fare sensazione, direi. No, ma non c'è dubbio, proprio perché anche il rapporto quello che succede in campionato, infatti è più una sorpresa che una critica, insomma. Certo. Senti, c'è un altro elemento secondo me inquietante e ricorrente, e cioè ieri sera, per la verità, l'unico conto disciplinare l'ha pagato Materazzi, perché insomma una frattura allo zigomo è una cosa seria, però è indubbio che tra Muntari e Quaresma ci stavano anche un paio di espulsioni, e così avremmo davvero fatto bingo, no? Rispetto alle ultime a riferimenti abbastanza recenti della storia dell'Inter, che hanno sempre creato forse il problema decisivo. Sì, ma questa cosa è veramente incredibile, anche questo non mi sembra che in generale sia una squadra che picchi o che si comporti male, eccetera. Però in Europa succede sempre qualcosa, anche questo è un dato abbastanza inspiegabile, insomma. Ecco, non si capisce bene se è nervosismo, se è troppa tensione, se c'è troppa pressione sul fatto che adesso la Coppa sembra diventata veramente stregata, così come per anni sembrava fosse stregato il campionato, al di là poi degli elementi che si sono scoperti dopo, insomma. Quindi veramente tutto un di situazioni abbastanza inspiegabili. Io vedo che nemmeno un Suiveur 25ennale da un punto di vista storico, ma insomma presente come pochi, forse come nessuno, sulla cronaca e sull'attualità, riesce in realtà a trovare una spiegazione, perché non so, il Cordoba, adesso faccio un paio di esempi, il Cordoba feroce addirittura delle ultime partite di campionato, ieri sera era un altro. Persino il portiere, che ultimamente è una specie di blinda, non trust, ma insomma è uno che la palla la blinda, ieri sera ne ha vomitate, come si diceva una volta, ma insomma ne ha respinte corte una serie abbastanza lunga. E sicché non si riesce a capire se è un problema mentale, è un problema mentale di condizionamento rispetto alla Coppa, oppure se è invece un problema di scarso impegno, di scarsa convinzione agonistica in quel momento. Che la squadra non si sia impegnata. Gli altri, secondo me, nel primo tempo non avevano fatto malissimo, non avevano costruito grandi occasioni, forse mezza, o avevano tenuto bene il campo. Poi dopo, piano piano, nel secondo tempo sono andati in barca, forse anche un po' per la condizione fisica di qualcuno che aveva giocato meno. E poi forse viene il sospetto che l'Inter ha una rosa molto ampia, ma i titolari veramente affidati sono 13 o 14. Sono abbastanza almeno in questo momento. Ecco. Poi dopo se vengono recuperati in Quaresma, allora è un altro fatto. Allora poi è un altro discorso. Mancano 2 mesi e mezzo, intanto mancano ancora 8 giorni, 9 giorni al sorteggio degli accoppiamenti e poi mancano 2 mesi e mezzo al ritorno. Ma stanotte, rientrando da Brema e guardandoli un pochino nelle palle degli occhi, come si dice, hai avuto la sensazione che a febbraio la musica potrà davvero cambiare come tutto l'ambiente si augura, oppure che questo blocco psicologico sia destinato poi a restare, Fabio? Ma lo dicono tutti. Io credo che se dovessero fare molto bene il campionato, allora potrebbero davvero concentrarsi sulla Coppa, perché un altro sospetto è che la squadra faccia fatica a recuperare nel giro di 2 o 3 giorni e quindi arrivi alla partita di Coppa non al massimo della condizione. E questa è una squadra che secondo me è forte, fortissima, soltanto se stanno veramente tutti bene e riescono ad andare a 100 all'ora. Insomma. Ecco, questa mi sembra, di tutti i tentativi di spiegazione che abbiamo cercato, questo mi sembra il più convincente. Grazie allora, Fabio Monti. Grazie a voi. Chiudiamo questo collegamento col Corriere della Sera. 800 24 00 24, vi ricordo il numero per intervenire in diretta per le vostre opinioni. Oggi magari le anticiperemo un po', perché dopo l'intervallo della borsa di metà trasmissione cambieremo in linea di massima argomento, e cioè parleremo della crisi economica che sta investendo non soltanto il calcio ma tutto lo sport, e ne parleremo con cognizione di causa e con numeri significativi, per non dire in qualche caso impressionante. Adesso ascoltiamo qualche breve commento di ieri sera, a cominciare direi dal capitano della Roma, perché fin qui abbiamo parlato delle disavventure dell'Inter, ma mi sembra che sia anche tempo di dare spazio all'impresa che la Roma ha compiuto. Totti. Siamo contenti anche perché da come avevamo iniziato la Champions League non è che eravamo proprio sicuri di poter arrivare primi, invece con la determinazione e la convinzione di una grande squadra penso che siamo usciti fuori. Beh, insomma, partire da una sconfitta in casa contro il materasso del girone e poi arrivare a qualificarsi come prima in un raggruppamento che prevedeva il Chelsea, avendo poi perso anche la partita di andata a Londra, è a parer mio un'impresa in piena regola. Sentiamo il commento invece di Mourinho alla sconfitta di Brema. Adesso meritiamo uno dei più forti. Questa squadra merita, per sua propria cupa, merita un Barcellona, merita un Manchester, merita il campione d'Europa. Quando arrivare all'ottavo di finale a febbraio sarà il momento di giudicare veramente le nostre potenzialità in Champions. Questo è vero. Staremo a vedere. Gattuso è partito stamane dallo scalo privato di Malpensa per il Belgio, dove andrà a farsi visitare dal professor Mertens e quasi certamente anche a farsi operare. Gli è stato domandato come è riuscito a giocare per 86 minuti con il legamento crociato lesionato, visto che l'infortunio che gli costerà mesi e probabilmente l'intera stagione del Milan, l'infortunio è avvenuto al quarto minuto del primo tempo di Milan-Catania. Gattuso ha risposto alla stessa domanda che mi fanno in continuazione gli stessi dottori del Milan. Io ancora adesso non penso di avere questo legamento crociato rotto, perché non mi fa poi così male. È la risonanza che dice che è rotto. Speriamo che Mertens cambi questa diagnosi. Sentirei almeno uno di 2 ascoltatori già collegati con noi, che è Fabrizio da Ancona. Buongiorno. Buongiorno. Dica Fabrizio. No, sono un tifoso dell'Inter. Sì. Io credo che sono d'accordo con il giornalista di prima, Monti, cioè sul fatto che l'Inter domini in campionato perché ha una grande rosa sconfinata, e altri squadre non hanno, ha giocatori molto fisici e in più ha un paio di opzioni, il che non guasta. Ma quando ci sono delle partite in Europa, ci sono molte squadre che hanno una valenza fisica pari all'Inter, quindi quando l'Inter si trova a giocare contro squadre che hanno le sue stesse armi va in difficoltà. Poi si parla tanto della rosa sconfinata dell'Inter, però ci sono 7-8 giocatori che il nostro rendimento pari quasi a zero. Posso citare per esempio Adriano, Vieira, gente che non gioca mai come Dacur, Crespo, Cruz, Figo. È proprio per questo che le collezioni di figurine, a parer mio, è molto personale, non servono. Servono delle buone alternative. Io credo che non sono facili da trovare nemmeno quelle, perché ci vuole gente che si accontenti di un ruolo marginale e di subentrare solo quando è chiamato, a forza di belle prove e belle dimostrazioni in allenamento. Ma il rincalzo ideale oggi in una squadra italiana, se insomma, ce l'abbiamo sotto gli occhi, è Brighi, no? Questo è l'emblema, e credo che il modello di tendenza di quelli che devono indossare le maglie numero, poi i numeri sappiamo che sono diversi, ma insomma le maglie numero dal 13 al 18 più o meno, che sono quelle che contano, credo che il modello di riferimento dovrebbe essere proprio Brighi. Torniamo con i vostri interventi, vi ripeto, prima di passare poi nella seconda parte dell'appuntamento di oggi alla crisi economica e ai suoi effetti che si riverberano sullo sport, sul calcio, ma non solo. Loris ha chiamato da Mantova, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini. Dica. Ma io guardo, sono un tifoso interista, nonché allenatore di base, purtroppo non a livello di Mourinho. Problemino di collegamento, sparizione anche del display con i nomi degli ascoltatori, e quindi credo che tocchi a Roberto da Verona, mi dicono dalla regia. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi, grazie di avermi richiamato. E niente, io telefonando proprio da neutrale, nel senso che non sono un tifoso dell'Inter, però vedendo la partita ieri su Sky e venendomi in mente le parole di Mourinho al termine della partita precedente dove avevano perso, e il quale Mourinho diceva che non sapeva se valeva la pena arrivare primo o secondo. Ecco, guardando la partita ho detto, vuoi vedere che l'Inter perde? E infatti la realtà ha perso, perché il buon Mourinho, adesso io magari sto parlando per nulla, però mi è venuto questo dubbio, che il buon Mourinho, avendo visto che magari le formazioni più forti sono arrivate seconde, magari non valeva la pena arrivare secondo per giocare con le prime. E volevo chiedere a lei se questa cosa è così assurda oppure può essere una cosa vera, e la saluto. Una cosa assurda per la semplice ragione che basta guardare chi sono le prime e chi sono le seconde. Poi è vero che c'è qualche seconda insidiosa a cominciare dal Chelsea, ma se mettiamo su un piatto della bilancia le prime e le seconde, dia retta a me. Che è molto ma meglio piazzata la Roma col suo primo posto che non l'Inter della seconda nella pesca che faranno, salvo poi situazioni di particolare aiuto dalla sorte, ma insomma non ha fatto certamente questo calcolo Mourinho, mi creda. Raffaele ha chiamato da Napoli, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sente? Certo Raffaele, dica. Volevo sapere sulle due partite di ieri, ma come spiega che un arbitro, adesso non mi ricordo chi era l'arbitro di ieri dell'Inter, com'è possibile un fallo del genere, mi sembra di Quaresma, sul giocatore del tedesco, invece di cacciarlo via ha ammonito il giocatore tedesco, cioè voglio dire, poi ce lo vendiamo agli arbitri italiani, cioè è anche l'altro fallo, adesso non mi ricordo di chi, due espulsi e poi non c'è stato nulla, solo come mai anche in campo internazionale l'Inter ha questi, chiamiamolo così, favori arbitrali? Ma quali favori arbitrali? L'Inter ha spesso pagato dazio in passato, quasi sempre giustamente, qualche volta qualcuno ha infierito, ieri sera ha trovato un arbitro mediocre, semplicemente scarso, che certamente ha risparmiato qualcosa. Quaresma andava sicuramente espulso, il fatto che sia stato Muntari probabilmente, il fatto che sia stato ammonito invece per proteste Frings, che questa entrataccia da codice penale da Quaresma l'aveva subita, le dice subito di che forza era quell'arbitro, senza bisogno di tietrologie e di fesserie che lei stava accennando. Loris da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, dico, sono un allenatore di base, e a parte l'errore di non aver tesserato Samuel nella lista UEFA per valutazioni su, però il signor Mourinho non si vede, io sono stanco, stufo da interista, anche se non sono uno sfegatato, però cioè, io mi reputo un competente nella materia, ma non guarda che questa squadra, questo 4-3-3 che lui vuol fare, o questo 4-2-3-1 che ha applicato in due o tre partite, la squadra non lo digerisce, lui c'è che voglio obbligare Balotelli a rientrare e coprire, Quaresma a ricoprire dall'altra parte, giocare con una punta sola, o Ibrahimovic o Adriano, che sono due giocatori che fanno le sponde. seconde, hanno bisogno di un altro attaccante di fianco, cioè, ma non capisci, in sei partite in cui lui ha giocato, ho finito l'ultima mezz'ora così, mi riferisco a Genova, Werder Bremen in casa, hanno Torsi fuori casa, Werder Bremen fuori casa, Brian Cole fuori in casa, il signor Mourinho ha fatto 3 punti, 3 pareggi, e con Milan abbiamo perso con Werder Bremen, abbiamo perso con il Panathinaikos. Sì, ma non si rende conto di questa squadra, non lo digerisce. Sì, Loris, però tenga conto una cosa, diceva prima saggiamente Fabio Monti che poi un allenatore di base o non di base trova una formula, ma avendo una rosa molto grande da gestire non può rinunciare comunque alle alternative, e non è giusto nemmeno che rinunci alle sperimentazioni in cui crede. Ora non c'è dubbio che sia sbagliato, a parer mio, compromettere il primo posto di un girone che ti dà diritto a almeno un vantaggio, che è quello di giocare la partita di ritorno in casa negli ottavi. L'Inter invece la giocherà fuori, però è anche vero che quelle sono le occasioni giuste, perché la ribalta della Coppa è una ribalta di primissimo livello, anzi la più alta possibile, per vedere se davvero i Quaresma, i Mancini, i Balotelli, gli Adriano sono persone su cui non si può più contare, o si può contare solo proprio in caso di infortuni o di strage di titolari, no? E quindi da questo punto di vista credo che abbia avuto un senso. Poi magari l'ha cambiata troppo quella formazione, ma sul fatto che per esempio Ibrahimovic tirasse finalmente una volta il fiato, e secondo me doveva tirarlo per 90 minuti e non soltanto per 45, mi sembra invece che si potrebbe anche concordare volendo. Sentirei Stefano da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dica, dottor Garanzini, volevo un parere da lei. Sì. Ora, indipendentemente dal fatto che l'arbitro dell'Inter ieri sera era una frana proprio, ora voglio sapere, Montari quando giocava in altre squadre faceva una partita e due stava fuori. Ora, sì, da quando è all'Inter gli ho visto fare dei falli da cartellino rosso subito, eppure non succede niente. Volevo sapere solo questo, se un parere da lei su questa cosa. Ma a me pare che Montari quest'anno Dazio l'abbia già pagato, se per quello, anche se non tengo particolari statistiche. È indubbiamente un giocatore a rischio, Montari, lo è sempre stato, sia all'Udinese che nella sua esperienza inglese. Perché è un giocatore che non si sa frenare, non si sa controllare. Ieri sera lo ha dimostrato, gli è andata certamente bene, ma insomma, avanti di questo passo, poi sai, gli arbitri ti fanno in fretta a metterti nel mirino e dopo è peggio. Da questo punto di vista Montari, che peraltro è un giocatore preziosissimo, anzi è una delle chiavi direi del rendimento dell'Inter di quest'anno in campionato, mi sembra che non sia particolarmente intelligente, credo che questo lo si possa dire. Lo era molto di più in campo un grande giocatore che è scomparso stamane, un croato, Jerković, nome non particolarmente suggestivo e non particolarmente conosciuto. È morto a 72 anni, era nato quindi nel 36. Pensate che Jerković dal 54 al 65, giocando nel campionato jugoslavo, ha segnato 300 gol in 315 partite, questo per dare un'idea. In patria lo chiamavano il migliore dei migliori, e per dare una dimensione internazionale di chi era, fu capocannoniere condiviso sia ai mondiali di Cile 62 che ai campionati europei francesi di 2 anni dopo. Poi ha avuto anche una buona carriera da allenatore, ma non degna comunque di quella che ebbe invece da calciatore. Andrea ha chiamato dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io ho una domanda che un po' si ricollega a quanto già ha detto l'ascoltatore di Verona sulla volontà di Mourinho di arrivare secondo, e so che è una cosa molto dietrologista e fantasiosa, però in effetti lui ha fatto 2 dichiarazioni, se ben ricordo una prima della partita in casa col Panathinaikos, in cui disse che riteneva essere un vantaggioso giocare la prima in casa e non la seconda, e poi ha detto più volte che lui vorrebbe per l'Inter una squadra molto forte, così si trovano gli stimoli, così si trova la forza per fare una grande partita. Ecco, non può essere che questi 2 elementi portino a prendere in considerazione l'ipotesi. Andrea, tutto può darsi, Andrea. Io credo che la mitomania del tifoso nerazzurro non abbia veramente confini. Non posso dimenticare che lo scorso anno intasaste i centralini per dire che l'Inter aveva lasciato vincere il Milan nel derby perché ne aveva bisogno per la classifica. Quindi ascoltata quella, per me sono ascoltate tutte e, non, e certamente non mi stupisco di questo, di questa vostra teoria su Mourinho, che mi sembra attribuirgli la storia della volpe dell'uva, no? Se non sbaglio. A proposito di Sconti, parlo all'ascoltatore precedente, di Sconti, del fatto che Muntari in Italia, cioè da quando gioca nell'Inter è impunito, ha beccato 3 giornate dopo il Catania, 3 giornate di squalifica fin dalla prima giornata, ripeto, a proposito di tifo che obnubila e resetta anche la memoria. Se Mourinho avesse voluto arrivare secondo, perché fare entrare Ibrahimovic? Domanda un ascoltatore, e non è una brutta domanda in effetti. Ma vi ricordate che Mourinho ha fatto spendere a Moratti 24 milioni per Quaresma? Scrive Giampiero Bramezza da Montebelluno. È chiaro che ogni tanto deve provare a farlo giocare per giustificare la sua scelta, e anche questa non mi sembra male. Per esempio, io trovo che, come spesso accade, insomma, la verba volante, insomma, invece chi mette giù il suo messaggio o spedisce la sua mail ha un momento in più per ragionare. Il bentornato a Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, apriamo questo nuovo capitolo di oggi, fermo restando che poi spero ci sarà tempo ancora per qualche intervento più strettamente calcistico. C'è il caso Honda, c'è il caso Formula 1, mi pare che anche altri sport stiano cominciando a patire gli effetti della recessione, insomma, chiamiamola come vogliamo. Il calcio sta cominciando a parlare di tagli abbastanza consistenti. Beh, insomma, la crisi è arrivata, sta arrivando anche in questo mondo. Credo che gli effetti siano ormai palesi, anche se qualche forma di resistenza evidentemente c'è, come non so, i 24 milioni per Quaresma sono una cifra abbastanza consistenza che va in controtendenza. Diciamo che da un lato un po' di austerity credo che non faccia male al mondo dello sport in generale. Il caso della Formula 1, della Honda che ha annunciato il ritiro, insomma, che ha riempito le pagine dei giornali nelle scorse settimane, e che potrebbe non essere l'unico team, mi faceva pensare a questo, insomma, 300-400 milioni di costi per gareggiare in Formula 1 rappresentano una cifra, insomma, importante, che comincia a essere qualche 0,1 di PIL, insomma, per quanto riguarda l'Italia e il governo che sta cercando fondi ovunque, insomma, l'italiano potrebbe, certo, essere interessato a recuperarli. La crisi è vicina, anche se per esempio alcune dichiarazioni di Matarrese e Campana, che è il presidente dell'associazione, no, dei calciatori, il sindacato, sì, dei calciatori, che prevedono una crisi ancora più forte nel 2010 con una riduzione di oltre il 20% degli ingaggi, degli stipendi, mi hanno lasciato un po' perplesso, visto che il 2010 mi sembra troppo in là. Abbiamo una realtà invece molto più drammatica e attuale, gran parte delle squadre, delle 90 squadre delle Forse era una speranza la loro, no? Probabilmente. Dicevamo, 90 squadre di Lega Pro, la maggioranza non riesce a pagare gli stipendi, non li paga da agosto. In Serie B gran parte le squadre non riescono a pagare gli stipendi da agosto. Avellino e Ascoli sono state deferite, certo, dal procuratore Palazzi, rischiano alcuni punti di penalizzazione. C'è il caso Pescara, in Serie C, che è emblematico, con una società che non riesce a pagare nemmeno il minimo federale, parliamo di 1000 euro al mese, insomma, garantito, certo, doveva essere garantito ai calciatori. Insomma, Il sistema sta in qualche modo, se non ancora saltando, sta scricchiolando pesantemente. Sta cicolando. E la preoccupazione è evidente. Insomma, anche Galliani ha parlato, insomma, di una crisi imminente, di un modo di gestire l'impresa calcio che deve cambiare, che si deve adeguare ai nuovi tempi. E in questo senso, insomma, sì, ci sono quei segnali di cui insomma, noi non abbiamo ancora parlato, ma che si sono visti nelle ultime settimane di fronte di fronte alla vecchia logica mercantile del calciatore, no? Io sono arrivato in Italia, per esempio, o comunque ho debuttato costando abbastanza poco, adesso ho dimostrato di essere un buon calciatore, voglio non un piccolo aumento, voglio 10 volte tanto. In questo senso l'intervento, insomma, moralizzatore di De Laurentiis, ma qualche giorno prima anche Della Valle aveva rilasciato dichiarazioni simili, vanno apprezzati, perché a mio avviso segnalano un'inversione di tendenza, o comunque una consapevolezza che in altri luoghi, in altre società, non sembra esserci. Guardando la cosa dal punto di vista strettamente economico, nel momento in cui un club acquista un giovane calciatore di belle speranze e fa un contratto lungo per investire, si assume anche un rischio d'impresa, perché ovvio, se quel calciatore, come dire, fa flop, lo stipendio la società deve comunque pagarlo. Metti che hai pagato 24 milioni di euro Muntari più Pelé, che comunque non era un brutto giocatore, e che è entrato in questo affare, in questa valutazione, gli hai firmato un contratto di non so quanti, ma immagino che minimo 3, ma magari anche qualche anno diversi di più, milioni all'anno, e poi magari ci sono bilanci, insomma, con decine di milioni di debito, e non ci dobbiamo meravigliare poi di quello, finché c'è qualcuno che ci mette il grano, insomma, il famoso metterci il grano, il, no? Il problema si risolve, ma il punto è anche, diciamo, la cafonaggine. Ha parlato proprio di cafonaggine, per esempio, De Laurentiis, dei procuratori, di un certo modo di sfruttare, diciamo, i calciatori che è invalso negli ultimi anni, è scandaloso, laddove di fronte a poche partite o una stagione in cui effettivamente, insomma, alcuni calciatori acquistati da giovani hanno dimostrato di valere magari ingaggi superiori, scatta subito la richiesta di aumenti, e di aumenti, certo, sproporzionati. Questo significa che le società sono costrette, diciamo, in qualche modo ad assumersi il rischio del fallimento dell'acquisto, ma allo stesso tempo però a dover poi sborsare più soldi qualora questo investimento vada a buon, certo, fine, insomma, che poi è storia vecchia quanto il calcio, quanto lo sport, quanto qualsiasi logica mercantile, no? Su questo non c'è dubbio, ma è ovvio che diventa particolarmente inattuale, per non dire grottesca, nei tempi che stanno arrivando, e che invece forse sono già anche arrivati. Abbiamo sentito, no, letto per la verità soprattutto, grandi accenti trionfalisti da parte della Rai, di Sky, ma in particolare della Rai, per aver rinnovato per altri 3 anni i diritti, no, di trasmissione delle coppe europee. Ora, a parte per chi segue i programmi Rai, che ci toccheranno in sorte ancora per altri 3 anni, alcune facce, alcune voci che sinceramente faccio fatica a rubricare sotto la voce belle notizie, ma mi sembra di capire che tu hai colto un risvolto un po' meno trionfalista invece rispetto al direttore generale Cappon. Sì, leggevo ieri le agenzie e mi sorprendeva molto questo tono trionfalistico. Ora, o uno guarda soltanto nel proprio giardino, come bene ha fatto magari Cappon, che ha risparmiato molti soldi, oppure, diciamo, non ha esattamente coscienza di quello che è il mondo, diciamo, del calcio e il mondo economico che è intorno al calcio. Cappon giustamente ha detto: io per la prossima stagione ho risparmiato oltre il 50% comprando questi diritti, perché tra i diritti della Champions League, tra 90esimo minuto di Serie A e B, la radio e la Coppa Italia, spenderò rispetto ai precedenti contratti la metà, 60 milioni anziché 120 milioni. Siamo tutti contenti, paghiamo il canone della RAI, e quindi, insomma, grosso modo il fatto che la RAI abbatta i costi non può farci che piacere. C'è però il corollario, e cioè il mondo del calcio italiano in particolare vive di diritti televisivi. Oltre il 70% dei bilanci delle società arrivano dagli introiti televisivi. È chiaro che 60 milioni in meno significa che la torta diventa sempre più piccola, e se poi le società di B o di C non riescono a pagare gli stipendi, non è che dobbiamo poi meravigliarci, certo, tanto, certo, insomma. Sì, quindi per il movimento globale non è una bella notizia, non per è il calcio. Questa grande notizia, e poiché anche chi trasmette calcio fa parte di questo movimento globale. Sì. Tra l'altro bisogna interrogarsi anche, secondo me, sul modo di usufruire del calcio in TV. Ho letto su vari giornali in questi giorni questo dato, devo dire, ammetto che non conoscevo e mi ha sorpreso, della Premier League, che incassa quanto se non di più rispetto al calcio italiano, ma trasmette soltanto una parte, 138 partite del campionato di massima serie. Quindi 138 contro tutte le nostre. Le 380 che trasmettono. Nostre, certo. Però se uno dà un'occhiata così agli stadi italiani, vede che mentre quelli inglesi sono pieni, gli stadi italiani spesso hanno vuoti sugli spalti, il che testimonia che forse il prodotto calcio viene venduto male alle TV. Per il 2010 sono stati garantiti dall'advisor 900 milioni alle società. Il 2010 scatta, ricordiamo, la nuova vendita collettiva. Certo. Però il fatto che vengano trasmesse tutte le partite forse disincentiva ad andare negli stadi, oltre ai problemi ovviamente che abbiamo ricordato di violenza o di, come dire, scarsa comodità degli impianti italiani. Il modello di gestione della Premier League, anche lì tante società sono indebitate, ma in generale il modello che funziona, perché i diritti vengono venduti meglio, certo, e gli stadi sono pieni. Quindi forse una riflessione anche su come la diciamo, TV stia fagocitando, diciamo, lo spettacolo calcistico andrebbe fatta, e dei risparmi che sono importanti per un'azienda televisiva si riveleranno con un boomerang invece per chi dovrà, per chi vive di quei diritti, a meno che il modello di gestione del calcio non cambi e torniamo agli discorsi degli stadi da privatizzare, del modello forse Juve che sta andando nella giusta. Sì, però torniamo a discorsi discretamente futuribili, insomma, e non alla gestione di una crisi che invece è adesso. La realtà è immediata, sì, è di società che non possono pagare gli stipendi. Certo. Sentirei, dato che è rimasto almeno un argomento da affrontare poi nell'ultima parte della trasmissione, sentirei un ascoltatore che è in attesa già da qualche tempo e poi il traffico. Giorgio ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Grazi. Di che? Guardi, volevo dire un attimo la mia circa la differenza di rendimento dell'Inter, no? Sì. Dal campionato alla Coppa. Lo dico da neutrale, perché diciamo il mio cuore è viola. A me sembra di rivedere ciò che succedeva negli anni 70 più o meno alla Juventus, che era molto forte in Italia e regolarmente perdeva all'estero, e a mio parere secondo me è dovuto, oltre ad altre cose delle quali avete già parlato, anche altri due aspetti. Uno è proprio un aspetto mentale, la sicurezza della Juve degli anni 70 e dell'Inter di adesso, di quando giocavano in campionato, si perdeva proprio il modo di giocare, sicuro si perdeva automaticamente appena attraversavano le Alpi. La seconda la indovino, vediamo se l'ho indovinata. La seconda perché in Italia tanto la Juve di allora che l'Inter di adesso trovavano quei signori allora vestiti di nero e adesso di altri colori con e adesso i anche bianchi. Più colorati con i guantini bianchi. Giorgio da Prato, lei parla, riflette, ragiona e ricorda esattamente come un libro stampato. La ringrazio del suo intervento particolarmente appropriato, anche se magari qualcuno l'avrà gradito meno. In teoria restava un argomento da affrontare con Marco Bellinazzi, in realtà sono due, perché le agenzie hanno appena battuto che i tifosi della Roma non seguiranno la squadra nella trasferta di Catania, mentre quelli della Juventus potranno acquistare un solo biglietto per la partita di Bergamo contro l'Atalanta. Sono le decisioni di oggi del CAMS e poi naturalmente seguono altri incontri anche di prima divisione, per cui Pergo Crema Spal, Padova Reggiana, Benevento Potenza, Crotone Foggia. C'è una gara del campionato di hockey su Prato, Toyota Marcante Valdagno contro Hockey Viareggio, mentre a porte chiuse si giocheranno Pestum Real Ebolitane in eccellenza e Paganese Juve Stabia in prima divisione. Penso, questo è il solito bollettino, non solito, di guerra, ma insomma diciamo di prevenzione. Tra un po' per andare allo stadio bisognerà vincere all'otto il biglietto, perché più o meno sarà estratto. Siamo all'estrazione, insomma. Esatto, non siamo lontani. Mentre invece è in discussione in Parlamento la finanziaria che riguarda lo sport, che riguarda anche lo sport. E mi pare ci sia un aspetto discretamente curioso su come lo sport italiano si può salvare. Beh sì, perché in tempo anche qui di austerity economica si è pensato bene di tagliare i fondi del CONI. Ogni anno, diciamo, lo Stato passa al CONI 450 milioni, più o meno questo da un paio d'anni, da quando è stato riorganizzato, diciamo, il bilancio dello Stato relativo, insomma, allo sport, e poi il CONI deve distribuire questi soldi alle varie federazioni. Ricordiamo, ci sono federazioni che per l'80% dipendono da questi contributi e sono poi quelle federazioni come la scherma, la canoa, il canottaggio che mietono successi alle Olimpiadi e di cui poi tutti ogni quattro anni gioiamo. Per cui insomma sono vitali questi finanziamenti. Nei tagli che erano stati previsti, diciamo, nel progetto di legge finanziaria, si prevedeva un taglio del 25% ai fondi che lo Stato gira al CONI, ripetiamo 450 milioni, quindi più o meno 113 milioni in meno. Petrucci ovviamente ha lanciato più volte l'allarme, si parlava di 13-14 federazioni che non avrebbero potuto programmare la gestione, diciamo, degli atleti in vista delle Olimpiadi di Londra del 2012. Ora sembra che questo allarme sia rientrato, ma come sono stati trovati questi fondi? Attraverso i videopoker e slot machine. Carina questa. È stata fatta infatti un emendamento alla finanziaria che prevede una modifica, tra l'altro la legge che è stata fatta da poco sulla gestione di giochi e macchinette varie, per cui, tanto insomma per stringere, è stato previsto uno 0,7% di prelievo fiscale, quindi le imposte che chi gestisce queste macchinette, slot machine e videopoker dovrà pagare allo Stato, che dovrà essere devoluto al CONI, 0,7%, che più o meno corrisponde a quei 113 milioni che sono stati tagliati, e quindi questo dovrebbe salvare lo sport italiano. Quindi speriamo che col video poker e la slot machine vinceremo più medaglie d'oro alle prossime Olimpiadi. Pecunia non olet, insomma, diciamo praticamente mai, no? Figurati di questi tempi. Fausto ha chiamato la Lodi, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Tenterò di essere il più veloce possibile. Bravo. Una considerazione sugli stadi inglesi, che sono pieni, sono belli e tutto, però molti tifosi inglesi si lamentano del costo assurdo che hanno i biglietti in Inghilterra. Cioè, si va, per dire, per andare a vedere il Chelsea, una volta abbiamo chiesto, eravamo a Londra, 40 sterline, il posto più, diciamo, più economico. Più stracciato, sì. E poi per quanto riguarda l'Inter, ben venga il secondo posto che abbiamo ottenuto nel girone, che almeno ci vediamo una bella partita. Negli ultimi 30 anni non è che abbiamo avuto troppi big match in Coppa dei Campioni, quindi godiamocela. Adesso, vista il 10 dicembre, poi ne riparliamo verso il 20-25 febbraio. Sì, è vero Marco, i biglietti lassù costano molto, perché c'è un concetto diverso di accesso allo stadio, insomma viene offerto un servizio complessivo, un servizio migliore, ed il costo è più alto, insomma questo anche forse per tenere lontano, diciamo, certo, certe frange del tifo. È un concetto selettivo, diciamo pure classista, che però in termini di sicurezza e di funzionalità ha pagato, ha cinicamente pagato. Assolutamente, diciamo, le male lingue sostengono che i prezzi bassi negli stadi italiani servono per tenere concentrate, diciamo, certi scalmanati negli stadi, poterli controllare meglio. Io controfirmo da anni su questa tesi. Non so. ho pochi dubbi in materia, ma sono opinioni molto personali. Dobbiamo ascoltare ancora il ripasso di storia, affidato come sempre anche oggi a Nicola Filippone. Che cosa è accaduto nella storia dello sport, per l'appunto, il giorno 10 dicembre? Sembra ieri. 10 dicembre 1989. In Val d'Isère si disputa il primo supergigante stagionale di Coppa del Mondo. Alberto Tomba, 23 anni, uno dei principali candidati al successo finale in classifica generale, cade poco dopo l'intermedio, atterrando sulla spalla sinistra. L'impatto gli provoca una frattura alla clavicola. Se la caverà solo in un mese, trovando anche il tempo per chiudere la stagione con due vittorie slalom, che gli frutteranno il secondo posto nella classifica di specialità. Ma l'infortunio in Val d'Isère rappresenta una svolta nella carriera di Tomba, che da allora non ha mai più disputato né il Super G né la discesa libera. Quando vedere la partita allo stadio, scrive Luigi, costerà meno che vederla a casa, gli stadi saranno più pieni. Beh, però anche i mussi voleranno, come diceva il presidente del Chievo Campedelli, no? Cioè, insomma, anche gli asini, perché i mussi in veronese questo sono, anche gli asini voleranno. Al Chievo è successo, però insomma, i miracoli non è che si possano ripetere, non credo vedremo mai un biglietto da stadio che costi meno di una partita in pay TV. Marco. Credo di no, e credo soprattutto che dipenda molto dal settore dove si voglia andarla a vedere. In ogni caso è quel discorso che facevamo prima, insomma, se effettivamente si vuole valorizzare la realtà stadio come si fa in Inghilterra, insomma, come struttura che offre ristoranti, punti vendita del merchandising originale del della squadra, quindi non far dipendere più i club dalla TV, certo, probabilmente il rapporto sarà invertito e sarà più semplice andare allo stadio. Comunque si avrà una libertà di scelta maggiore che oggi credo sia ridotta. Che oggi non c'è. L'ANSA appena battuto la conferma. Gattuso verrà operato ad Anversa il prossimo venerdì 19, cioè proprio il giorno dei sorteggi di Coppa, lo ha comunicato il Milan e c'è la conferma della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Michele ha chiamato dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno Galantini, le faccio complimenti. Niente, la prima cosa volevo dire che per gli stadi a Brescia sono 5 anni che tentano di fare lo stadio di proprietà, ma non ci riescono, per via politica e burocratica così. Certo. E poi premetto anche che sono tifoso milanista. A me sembra che gli interisti continuino a tirarsi la zappa sul piede, nel senso che le Coppe dei Campioni, le Champions League di solito non si vincono a settembre, ma si vincono da febbraio in poi, quindi penso che passare per primi o secondi, adesso come adesso, non conti niente. L'importante è essere in forma a febbraio, in avanti. Questo mi sembra un segnale distensivo, visto che lei ha dichiarato prima il colore, anzi i colori. Questo segnale distensivo è un ragionamento che ci sta, è come. Che non conti niente arrivare primi o secondi, però non è vero, non Qualcosa conta pur sempre, ripeto, si gioca la partita di andata in casa, arrivando secondi, e si gioca il ritorno fuori. Giocare il ritorno fuori in certi stadi, tipo Anfield Road o tipo Bernabeu o tipo Camp Nou, insomma, secondo me qualcosina comincia a cambiare. Fermo restando che comunque al morale finire secondi dietro Panathinaikos, non so se lei ha soltanto dato un'occhiata ieri sera ai filmati di Panathinaikos a Anorthosis, ha visto il gol che ha qualificato il Panathinaikos sotto la pancia del portiere cipriota, e quello scontro tra titani era quello che ha mandato al primo posto di un girone con l'Inter il Panathinaikos. Beh, insomma, io non credo che possa far bene al morale e alla propria autostima. È scaduto il tempo, quindi grazie Marco Bellinazzo. Grazie a voi per la sua puntuale presenza anche questa settimana, a Flavio Soardi in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Giornale Radio.